Guarda, il casus che mi fa riflettere nasce domenica sera, sì. Quando a un certo punto sulla pagina Twitter di Giuseppe Mascara... Che faccio un breve inciso. Sì. Cosa deve succedere a uno per andare a vedere la pagina Twitter di Giuseppe Mascara? Cioè, è giustamente curiosità professionale, ma non è una devianza, no. Oddio, devianza magari eccessivo, un po' di perversione. Bene, vabbè. Però mi hanno spiegato, quelli che lo usano, io non lo uso, sì. Quelli che lo usano mi hanno spiegato che se tu raduni un certo numero di persone che hanno questo profilo e te le metti tra i favoriti, tra i preferiti, automaticamente sulla tua pagina ti compaiono i loro pensieri, quindi non hai bisogno di andare direttamente certo, a cercarli. Questa è un'attenuante che verrebbe riconosciuta dalla corte. Allora, succede questo, che ci viene segnalato il tweet di Mascara, che dice una roba tipo... sarebbe ora tu ammettessi che gli avversari sono... quando perdi ammetti che gli avversari sono più bravi di te, ne usciresti da signore presuntuoso. Ora, con chi ce l'avesse Mascara, ognuno può poi argomentare e ognuno di noi ha la propria opinione. Quasi tutti abbiamo pensato che si stesse riferendo al suo ex allenatore. Ex di pochi giorni, Mazzarri, no? Tra l'altro era proprio appena andato via a Napoli, sì, Mascara. Sì, sì. Il tacon peso del buso, come direbbero i veneziani, ecco, certo. È arrivato poco dopo, perché ha detto: io non mi permetterei mai di dire una cosa su un allenatore che mi ha scoperto e valorizzato. Quindi quei pochi che non pensavano a Mazzarri hanno avuto la conferma che stava pensando a Mazzarri. Oltretutto poi lui ha tolto questo pensiero da Twitter, lasciando solo la smentita. Secondo me ha fatto un pasticcio colossale, ma al di là di questo, che è un dato minimo nei destini del mondo, c'è questa cosa che attraverso Twitter i calciatori finalmente, e questa è la cosa positiva, sono un po' usciti dalla dittatura dell'ufficio stampa, dalla dittatura, sì, della società, e quindi, sì, hanno cominciato a dire delle cose.